l'altra Europa. Benvenuti all'Altra Europa, siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, che è il nostro appuntamento settimanale con la cultura europea, lo sapete. Radio 24 segue quotidianamente tutta quella che è l'attualità economica e politica della nostra Unione Europea. Noi il sabato cerchiamo anche altre sfumature, altri punti di vista. È un programma in collaborazione con Euronet. Euronet.eu è il portale di questo network paneuropeo, tante voci, tante radio diverse per affrontare temi comuni, e noi cerchiamo di portare il nostro contributo insieme anche al vostro, di contributi che potete mandarci via SMS al 349-238-6666. Ci trovate anche su Facebook, le nostre pagine ufficiali, facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter, @FedericoTaddia, e tutte queste sono le nostre coordinate appunto in rete, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi partiamo dalla Spagna. ¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo, te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día, te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan, te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el miedo. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometto che estés donde estés, llevarás esperanza. Questo è uno spot che sta girando in rete in questi giorni, ma sta girando anche sulle televisioni spagnole, che ha fatto discutere, ha fatto sorridere un po'. Il tono è: vuoi il posto fisso? Fatti prete. È lo spot lanciato dalla Chiesa per cercare di così avere qualche seminarista in più, sfruttando, usando, giocando un po' con la parola crisi. E la parola crisi è anche alla base del progetto, dell'attività, dell'iniziativa che vi vogliamo raccontare. È un progetto faraonico, un progetto strano, un progetto curioso. Si chiama Eurovegas ed è il tentativo di costruire una cittadella del gioco d'azzardo a Barcellona o a Madrid, e tentativo che così è all'inizio, però insomma dietro ci sono fortissimi investimenti, ma c'è un movimento forte, che, composto da una ventina di associazioni civiche e professionali, tra cui avvocati, il sindacato degli architetti, gli ecologisti, il forum del turismo responsabile di Barcellona e Madrid, che stanno dicendo no a questo progetto. È nato il movimento Eurovegas No, e con noi c'è Maria Fernandez, sociologa di Madrid, e fa parte di questa piattaforma. Ciao Maria, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, grazie. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Maria, raccontaci intanto cosa è sulla carta, o cosa dovrebbe essere appunto questo Eurovegas. Questo è un progetto che porta alla Spagna un uomo d'affari di Las Vegas, che si chiama Sheldon Adelson. È il proprietario di il Venetian in Las Vegas e di due complessi di casini in Cina, uno a Singapore e un altro a Macao. Sì. E quello che vuole fare qui è simile a quello che sta facendo in Cina. Fare un complesso con 6 casini, 12 alberghi. I casini, scusa, che in italiano sono i casinò. Sì. Perché che è appunto casino. Sì, perfetto. Sì. 6 casino, 12 alberghi, i campi per giocare golf, è un mostro di progetto. Un mostro di progetto, perché? Voi vi opponete fortemente, per quali motivi? Per tanti motivi. Prima, per in materia di ambientale. L'impatto ambientale del progetto sarebbe veramente insostenibile. E dopo, per tutte le condizioni che questo uomo esige al governo spagnolo. Un po' l'accusa che state facendo è quella che, al di là delle finalità assolutamente commerciali, perché appunto si parla comunque di gioco, si parla di un particolare tipo di turismo. Si parla anche, almeno sulla carta, di tantissimi ipotetici posti di lavoro. Lui parla di qualcosa come 200.000 posti. Però gioca l'imprenditore proprio su un tentativo di strumentalizzare la crisi anche per avere forti vantaggi fiscali o forti vantaggi con leggi speciali, nel senso che il governo, vista le potenzialità economiche, potrebbe chiudere più di un occhio per favorire l'apertura di questo casinò. Sì, infatti lui vuole cambiare tantissime leggi per questo casino, e vuole cambiare la legge di stranieri per conseguire i permessi di lavoro per i suoi lavoratori in fretta, e vuole cambiare la legge riciclaggio di denaro. Sì, riciclaggio, benissimo. E che le scommesse di meno di 2.000 euro non devono essere dichiarate. Sì. E vuole cambiare anche la legge di minorenne, vuole l'accesso di minorenne al casino e di giocatori, non so come si dice, malati, di giocatori legalmente che non possono entrare in nessun casino nel mondo. Mm-hmm. Sì, infatti leggevo un po' tra le richieste, c'è l'abolizione del divieto di fumo nei casinò, il divieto di accesso per i minori, come tu hai detto, o dei certificati da dipendenti del gioco, quindi una sorta di liberalizzazione totale, cioè chi ha voglia di giocare, chi ha voglia di spendere soldi avrebbe libero accesso. E la vostra protesta sta avendo eco, nel senso, davanti a una situazione di crisi, davanti ha la possibilità di avere tanti posti di lavoro, il governo come sta reagendo, ma anche la popolazione come sta reagendo? Ma noi pensiamo che questo del lavoro, abbiamo certi dubbi, perché il governo dice, parla di 260.000 posti di lavoro, ma in questa ditta, in Las Vegas Sun, in tutti questi complessi nel tutto il mondo, ha 50.000 posti di lavoro. Adesso i numeri non sembrano veri. Ok, quindi già questa cosa vi sembra poco limpida. Il governo, però, il governo locale di Madrid e quello di Barcellona, che posizione stanno prendendo? I governi stanno lottando per il progetto, per la costruzione, sia a Madrid o a Barcellona. Uh-huh. Per noi questo è una pazzia. Noi non vogliamo la costruzione del progetto né a Madrid, né a Barcellona, né ovunque. Mm-hmm. E quindi insomma, se si aspettano mesi di lotta, mesi di protesta, insomma, voi anche quello che dite, sono andato un po' a leggere sul vostro blog, insomma, non vi sembra questo un modello di sviluppo verso il quale andare per combattere la crisi? Insomma, non vi sembra una soluzione? Diamo il sito, che è eurovegasno.blogspot.com.es, lo pubblichiamo immediatamente anche su Facebook e Twitter. E grazie davvero, Maria Fernandez, per averci raccontato le ragioni della vostra protesta. Ci ritroveremo sicuramente qui in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao, buon sabato. Grazie tante a voi. Europost-it. Una mostra sul diritto al verde. Giardini di quartiere, zone riciclaggio e compostaggio comuni, orti urbani, fattorie che sfidano il cemento. Progetti e idee realizzati grazie all'auto-organizzazione, ai movimenti informali e collettivi nati dal basso, che aiutano ad interrogarsi anche sul modo con cui utilizziamo le risorse e capire come gli architetti, gli urbanisti e i comuni cittadini hanno affrontato questi problemi in tutto il mondo. Esperienze e foto da Chicago a Brema, da Parigi a Istanbul. Sono tutte raccolte nella mostra Hands on Urbanism, il diritto al verde, del Centro di Architettura di Vienna. L'esibizione, che raccoglie foto ed esperienze da tutto il mondo, rimarrà aperta fino a giugno. Per saperne di più, azw.at. Aujourd'hui, les Français doivent surmonter leur indignation et ne pas laisser libre cours à leur colère. Nos compatriotes musulmans n'ont rien à voir avec les motivations folles d'un terroriste. Il ne faut procéder à aucun amalgame. Avant de prendre pour cible des enfants juifs, le tueur a tiré à bout portant sur des musulmans. Je sais pouvoir compter sur la fraternité et la vigilance de tous les responsables religieux. La République doit être... Questo è un estratto dal discorso che ha fatto Sarkozy ai francesi dopo la strage di Tolosa e il terrorismo e i crimini razziali in Europa. L'Europa che vive sotto una costante minaccia del terrorismo e degli attacchi razzisti, questa è un po' la domanda che si è posta Euronet questa settimana. L'argomento comune dopo la strage di Tolosa, insomma, torna fortemente alla ribalta il bisogno di ragionare, il bisogno di capire, il bisogno di comprendere quella che è la reale situazione, quello che è un reale polso per non solo una percezione culturale, ma capire cosa sta succedendo in questa Europa, sempre più unita ma sempre più divisa, quanto razzismo e terrorismo vada avanti ancora per mano, è solo una semplificazione anche banale dal punto di vista giornalistico. Per fare un momento di riflessione su questo argomento abbiamo contattato l'ECRI, che è la Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza, è un organo di monitoraggio su quello che succede in Europa proprio sul tema del razzismo e dell'intolleranza, è un organo indipendente istituito dal Consiglio d'Europa per la tutela dei diritti umani e specializzato proprio su queste tematiche, e viene presentato un progetto quinquennale e proprio tra poche settimane verrà anche presentato quella che è una sorta di sintesi sulle nuove tendenze, per capire di cosa parla, di cosa studia l'ECRI e soprattutto per capire quelli che sono i dati più salienti sulla nostra Europa, abbiamo invitato Stefano Valenti, che è uno dei membri del segretariato dell'ECRI. Buongiorno Valenti, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci faccia capire intanto bene che cos'è l'ECRI, questo organo che cerca di fotografare razzismo e intolleranza. Non deve essere semplice già il vostro lavoro, perché è qualcosa di palpabile, il razzismo e l'intolleranza è qualcosa di misurabile? Ma diciamo che la Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza ormai lavora da 20 anni, e questi rapporti sono fatti ogni 5 anni su ogni paese, e appunto questa è un'altra Europa, non è l'Europa solamente dell'Unione Europea, ma è l'Europa di 47 paesi membri. Come ha detto lei, non è facile avere il polso della situazione per quanto riguarda il razzismo al di là delle definizioni giuridiche. Ecco, quindi diciamo ogni anno si visitano circa 9-10 paesi, quest'anno è stata visitata anche l'Italia, per esempio l'anno scorso c'è stato un rapporto sulla Francia, per esempio, e poi ogni anno si traggono le conclusioni in questo rapporto annuale che verrà pubblicato a breve. Mm-hmm. Ecco, quindi sono conclusioni relative ai singoli stati e poi cercate anche, immagino, tendenze comuni, se si può parlare di tendenze comuni su questo argomento. E ci può anticipare qualcuno di questi dati per capire, così, per avere davvero una sorta di fotografia, tratteggiare quello che esce dai vostri rapporti? Sì, diciamo che in due o tre paginette si può dare un'idea di quali sono le tendenze ultime. Prima di tutto c'è la crisi economica, che ha certamente una relazione poi con un indurimento del dibattito politico e soprattutto con lo sfruttamento delle paure generali da parte del mondo politico. Questo è un dato diciamo generale soprattutto nell'Europa occidentale. Sì. Poi ci sono i Rom e questa forma di intolleranza, di razzismo che adesso viene definito anti-ziganismo, che praticamente è proprio una forma, come c'è l'antisemitismo, si può parlare anche di anti-ziganismo, è una forma crescente e maggiore. E poi appunto, come dicevo, c'è questo sdoganamento del discorso razzista a livello politico, ormai non è più un know-how dell'estrema destra, ma ormai viene un po' utilizzato a livello di discorso elettorale. Questo è un fatto che sta sempre più crescendo. Quindi insomma è uno scarto importante, perché insomma diventa consuetudine quasi anche politicamente poter essere razzisti, nel senso non è più non è più strano, cioè viene usato proprio l'essere razzismo anche come arma politica sdoganata, come ha ben detto lei. L'uso di internet e dei nuovi media nei confronti di queste tematiche sta entrando, ho visto anche nelle vostre ricerche, c'è una correlazione: più aumenta l'utilizzo della rete, più c'è il rischio che aumenti il razzismo e l'intolleranza? Ma guardi, l'internet è di per sé un mezzo estremamente positivo. Il problema è che i vari social network certe volte cercano di trovare idee simili e non si confrontano, quindi si creano come dei piccoli mondi dove si cucinano idee altamente di intolleranza, di razzismo, e non ci si confronta. E questa propagazione attraverso l'utilizzo di internet è molto veloce, e questo fenomeno va sicuramente combattuto, però c'è il problema che combattere questo fenomeno vuol dire anche intaccare la libertà di espressione, e combinare queste due libertà, o questa libertà a non essere non aver violata la propria dignità e la libertà di espressione, non è facile, soprattutto se si combatte solo dal punto di vista giuridico. Secondo noi ci vorrebbe un lavoro più alla radice di questo fenomeno, perché in effetti internet è solamente lo specchio di sentimenti poi comuni. Ecco, mi chiedevo se, leggendo anche i rapporti delle singole nazioni, no? Sono fotografie che però possono essere utili anche per prevenire. Quello che è successo a Tolosa era prevedibile, nel senso è successo in una situazione dove comunque voi, per esempio, avevate denunciato il rinascere di situazioni comunque di forte intolleranza? Ma partire da Tolosa è un po' difficile, perché poi la notizia di prima pagina non fa mai bene a un esame approfondito della questione. Certo, le banlieue francesi o le periferie di tanti altri paesi sviluppati, se non c'è speranza, se non c'è integrazione, possono essere un brodo di cultura di tanti estremismi, insomma. Però dire che la questione, il fatto di Tolosa sia la diretta conseguenza di questo è prematuro. Una cosa volevo dire solamente, certo, che all'inizio sembrava che questo crimine fosse un crimine simile a quello successo in Norvegia l'anno scorso, quindi tutti si erano affrettati a condannare chi una parte, chi l'altra. Insomma, secondo me bisognerebbe un attimo fare un momento di sosta o di silenzio, e secondo me andava benissimo il minuto di silenzio che qua in Francia si è osservato in tutte le scuole e in tutti i luoghi pubblici, insomma. Valenti, concludendo, quando si parla di razzismo e intolleranza, insomma, anche qui la tendenza è sempre quella di estremizzare gli aspetti negativi. Cerchiamo anche quelli positivi per finire, insomma, con un messaggio di ottimismo. Ci sono di questi segnali, si può fare, ci sono percorsi costruttivi o percorsi incoraggianti? Ma c'è proprio bisogno, secondo me, di questi messaggi positivi, perché la lotta al razzismo e all'intolleranza non è un'attività ad esclusivo beneficio delle minoranze, secondo me è a beneficio di tutti. Ci sono esempi di successo, per esempio nel mondo del lavoro, dove l'accettazione e l'impiego di diverse minoranze poi ha dato sviluppo a dei business importanti. Oppure per esempio ci sono alcune minoranze sia culturali sia etniche che sono riuscite poi a farsi conoscere e a vincere un po' la diffidenza della maggioranza, insomma. Ci sono molti esempi in Europa, ecco, secondo me questi sono esempi positivi

Secondo classificato è stato Kilian Gatti di Nettuno, Roma, e terzo Nicolò Gherardi di Guastalla, Reggio Emilia. Finora oltre 16.000 bambini europei hanno contribuito con i loro disegni a questa competizione. I primi due satelliti lanciati da Kourou nella Guyana francese il 21 ottobre scorso portano infatti i nomi di Tisa e Natalia, dal Belgio e dalla Bulgaria. Galileo è il programma dell'Unione Europea che mira allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare sottoposto a controllo civile europeo. Per saperne di più, galileocontest.eu. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. Questo è il giuramento di ieri dell'ex attivista per i diritti umani Gauck, nuovo presidente federale della Repubblica Tedesca, per avere un ritratto e non solo, soprattutto per capire quella che è la che è stata la reazione o l'accoglienza anche dei cittadini. Abbiamo invitato una delle nostre voci ufficiali dalla Germania, diamo il ben ritrovato ad Ambrose Weibel del quotidiano TAG. Ciao Ambrose. Ciao Federico, ciao a tutti. Ti sei emozionato davanti al giuramento? Scusami? Ti sei emozionato davanti al giuramento? No, sicuramente no, perché ma prima di tutto perché è una carica, diciamo, fuori di tutte le discussioni. La carica del Presidente della Repubblica è meramente simbolica, no? non ha grandi poteri, è una carica rappresentativa. Certo, ma così è stata accolta o comunque per i cittadini ha un valore simbolico che è sentito o è stato comunque un passaggio indolore quello dell'arrivo del nuovo Presidente? Sì, questo sì, perché diciamo... La persona di Gauck è molto interessante, no? Perché lui non ha fatto la classica carriera di uno della casta politica, lui ha una retorica molto speciale, molto sa parlare, che per molti politici tedeschi, forse anche italiani, diciamo, non è proprio la dote che hanno, no? Certo. Lui è molto, molto capace di emozionare con le parole e poi ovviamente c'è anche dietro un gioco di poteri perché sapete anche in Italia che la Merkel decisamente non voleva un personaggio come Gauck nella carica del Presidente della Repubblica Tedesca. Perché? Qual è il vero motivo? Cosa c'è dietro? C'è dietro che Angela Merkel, diciamo, non vuole uno che funziona in modo totalmente diverso dei politici normali, sia con Wolf, sia con le altre persone che stanno, diciamo, nel circolo attorno a Merkel, sono tutti tecnocrati, no? Sono tutte persone che hanno fatto una carriera normale. E Gauck è una persona difficile da capire, difficile da controllare. Lui sicuramente avrà la sua agenda, una agenda tutta sua, e questo ovviamente alla Merkel non piace. Poi il secondo punto è che stranamente Gauck è stato il candidato della sinistra, no? Dei socialdemocratici e dei verdi. Ovviamente che adesso ha dovuto accettare Gauck dopo il fallimento di Christian Wolff, per lei è stata una sconfitta. Assolutamente. Invece il popolo, invece i cittadini sono interessati a questa diatriba o comunque sono abbastanza indifferenti? No, credo che Gauck abbia un vasto consenso fra la popolazione. Prima di tutto, ma diciamo, scusa, perché è anche lì un disgusto, consentimi questa parola, per la classe politica, cioè vedere un non politico in quel posto è un valore aggiunto? Sì, è proprio questo, diciamo, lui non parla il politichese, lui parla una lingua tutta sua, che viene anche, sapete bene che lui è un pastore, no? Un pastore luterano, ha veramente una retorica abbastanza forte, abbastanza si capisce bene quello che vuole dire. Dall'altra parte, diciamo, la cosa molto strana che Gauck forse sarà il presidente, diciamo, più conservativo che da molto tempo abbiamo avuto in Germania, e ciò essendo, diciamo, il candidato della sinistra. Qui si vede che è tutto un po' un gioco che a volte non si capisce bene. Per esempio, Gauck ha criticato fortemente il movimento Occupy Wall Street. Lui ha detto in un sistema come il nostro dell'Ovest, certe forme di protesta sociale non sono adatti, e via dicendo. Lui punta molto sulle libertà e punta poco, diciamo, sulla solidarietà, sulla giustizia, in una giustizia sociale nella società. Mm-hmm. Quindi si parlerà forse più di diritti e meno di economia, insomma, nella Germania del futuro. Ci sarà, insomma, sarà un doppio bilanciamento. Grazie davvero, come sempre, Ambros, puntuale e sintetico. Insomma, su cosa stai lavorando? Che mi piace sempre chiudere con te le chiacchierate su dove stai buttando l'occhio sulla nostra Italia in questi giorni? Beh, recentemente ho pubblicato, visto che Roberto Saviano è stato in Italia, ho fatto un'intervista con un mio caro amico a Reggio Calabria, che lì gestisce con altri amici un cosiddetto museo dell'Andrangheta, così un centro di lotta contro le mafie. Abbiamo pubblicato questa intervista essendo Roberto Saviano qua. E adesso, diciamo, mi occupo questa fine settimana mi occupo della fine settimana, perché qui c'è bellissimo tempo e vado fuori con i bimbi e via dicendo. Mi sembra l'inchiesta migliore. Grazie davvero, ciao Ambros, buon weekend. Grazie a voi. Ciao, ciao. E noi da Berlino andiamo di corsa a correre a Londra, pochi minuti per raccontarvi un progetto che ci ha molto incuriosito ed è una sorta di servizio per il benessere fisico. Perché non sfruttare lo spazio, il momento in cui si esce di casa per andare al lavoro, per esempio non prendere la metropolitana, non prendere il mezzo pubblico, ma andarci di corsa. C'è un sito, si chiama Home Run London, homerunlondon.com è il portale. Con noi c'è Marco Di Biase, che lavora spesso a Londra e credo abbia intercettato questi corridori della mattina. Ciao Marco, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, infatti è stato, diciamo, un evento abbastanza casuale. Ero a Londra perché sono spesso lì ogni due o tre mesi. Ero dalle parti di Bank, della metropolitana. Avevo appena terminato un appuntamento e quindi mi stavo salutando con la persona che avevo incontrato, e mentre stavo per prendere la fermata della metropolitana vedo sfilare 15-20 persone, tutti con una maglietta arancione, e quindi mi sono incuriosito. Ho chiesto alla persona che era con me se conosceva questa cosa, non ne sapeva niente. Dopodiché, a Londra sono sempre molto gentili, sono sempre molto informati, e quindi mi hanno detto e mi hanno parlato di questa iniziativa che si chiama Home Run London. Poi il caso ha voluto che io sono rientrato in Italia e mi ha chiamato una mia amica di Montreal, che si chiama Sabrina Luciani, che ha lavorato per Limelight Sports, sì, che è l'agenzia di organizzazione di eventi che ha avuto questa idea, e mi ha chiesto di poter parlare poi con voi e fare l'intervista. Io ho detto: guarda, la settimana scorsa ero lì, l'ho visto con i miei occhi, mi ha incuriosito, anzi la prossima volta che torno su vedo di prendere una giornata per fare la stessa esperienza, perché è incredibile e affascinante la cosa. Marco, succede più la mattina, cioè quando esci di casa, o è alla sera? È alla sera, quindi ho capito male io, cioè finito il lavoro c'è una sorta di servizio proprio per aiutare questi impiegati, finito il lavoro si ritrovano, appoggiano la 24 ore in una sorta di carrello comune e vanno a correre per la città? Guarda, allora, lì funziona in questo modo: fino alle 4:15 tu hai la possibilità gratuitamente di prenotare la tua corsa. Per esempio, quello che ho visto passare io una route che è praticamente di circa 2 miglia, sì, quindi sarebbero 3 chilometri qualcosa, e si può arrivare fino a 6 miglia, c'è un corridore professionista che fa il passo e ti porta quindi in giro. Tu arrivi quindi in ufficio, ti prenoti entro le 4 e un quarto la postazione, ti porti logicamente le scarpette da tennis con te, i pantaloncini, dopodiché scendi giù e hai l'appuntamento. Per esempio in questo caso dove ho visto io era a Bank, c'è una bicicletta dotata di un contenitore, loro ti regalano la maglietta arancione che poi è il simbolo loro, e uno zainettino dove tu puoi riporre il tagliere, oppure piuttosto c'era gente che aveva il portabiti. E quindi iniziano a correre, passano per... è bellissimo perché tu alla fine vedi l'onda in un altro modo. E dopodiché arrivi alla fermata successiva dove hai già la bicicletta che ti ridà lo zainetto, e tu dopodiché torni a casa. Hai visto poi parlando con Dick Conloy, sì, mi hanno spiegato anche più o meno qual è stato il senso, che sia prettamente sportivo, sia turistico e paesaggistico, ma soprattutto anche è un'idea per cui sono stati anche contattati dal governo, perché in prospettiva di London 2012 avranno un aumento esponenziale di persone, quindi è un'idea intelligente per le persone che sono di Londra per fare attività fisica e di congestionare anche il traffico della metropolitana. Marco, grazie davvero, poi deve essere divertente vedere questi correre anche col BlackBerry sicuramente. Ciao Marco, grazie per averci raccontato questa bella esperienza, e grazie a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia, tutta la squadra di dell'Altra Europa, Margherita Ina e Viola Frifa che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca in assistenza anche oggi, Roberto Scaltritti alla parte tecnica, www.radio24.it è il nostro sito. Ancora buon sabato da Federico Taddia.